Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. La ribellione è una cosa seria e spesso queste parole vengono usate per dei concetti un po' vuoti, no? E quindi la ribellione è seria perché qualcosa che tu porti dentro vuol dire che tu sei disposto ad andare oltre. Qualsiasi cosa ci sia o accada, tu sei lì, vuoi andare oltre. E sei disposto ad essere un po' un virus, perché quando tu togli le bende, non ti muovi più nello stesso modo, no? E quindi se tutti vanno a sinistra è capace che tu svirgoletti diversamente. Qualche consiglio prima di cominciare. È importante tenersi saldi ovunque ci sia un appiglio e allacciare bene le cinture di sicurezza in previsione di qualche sbandata. È l'avvertenza che accompagna oggi i magnifici destini ed è un consiglio prezioso, considerato che affronteremo molti salti e diversi cambiamenti repentini di direzione. Un percorso complesso, a volte pericoloso, ma che possiede la magia dell'improvvisazione e il fascino della riscoperta continua. Esistono molti modi per esprimere quello che si ha dentro e la musica è certamente uno dei veicoli più belli e immediati, ma è un mezzo altrettanto impegnativo e lastricato di pericoli laddove venga a mancare la giusta determinazione. Ci vuole un po' di follia, insomma, senza la paura che di solito emerge quando ci si affianca a questo tipo di emozione. Però è molto vicino all'arte, quindi non è pazzia. Perché a volte vedere un artista così, che si manifesta in prima linea, può passare per un esaltato, per un folle, per una sì, ma insomma ci avrà delle motivazioni interiori molto scombussolate, beh, invece no. E quindi l'arte, la creatività è un principio spirituale importante che avviene. Non c'è pericolo quindi, anche perché le parole che avete ascoltato e che ascolterete lasciano trasparire una grande maturità e una buona dose di consapevolezza. E non poteva essere altrimenti per chi, come la nostra protagonista di oggi, è cresciuta e si è evoluta affrontando con grande coraggio ogni situazione e ogni sorpresa più o meno gradita che la vita le ha messo davanti. Una donna che attraverso le sue trasformazioni ha raccontato se stessa il proprio modo di pensare senza timore di imbarazzi o cadute di stile. Una cantante dotata di una voce straordinaria e di una voglia sfrenata di buttarla dentro a un microfono. In una parola, Anna Oxa. Noi azioniamo, ci muoviamo, creiamo e quindi se noi ci muoviamo con la consapevolezza di aver compreso determinate cose, noi possiamo scegliere, cambiare il nostro modo di vivere stando meglio, non stando peggio, stando meglio. Prepariamoci a stare meglio allora, perché se c'è una cosa che Anna ha fatto durante tutto l'arco della sua carriera è stata quella di muoversi e di creare. Senza di me cosa si fa nei pomeriggi troppo blu senza me? C'è un'indole nomade che vive all'interno di Anna. Un'indole che l'ha portata nel corso degli anni a sperimentare, a trasformarsi, talvolta a provocare senza mai dare nulla per scontato. Un'indole che si manifesta subito, da quando lei è giovanissima. Una scoperta che la coglie di sorpresa, ma con cui imparerà presto a convivere. Sicuramente non ero una bambina nella norma, quindi una bambina abbastanza silenziosa, vivevo in un certo modo, ecco, in modo diverso da altri bambini. Quindi la mia infanzia, la mia adolescenza è stata abbastanza complessa. Non è difficile credere a queste parole. Figlia di una mamma italiana e un papà albanese, l'infanzia e l'adolescenza della Oxa trascorre a Bari, nel quartiere di San Nicola, in mezzo ad altri 7 bambini tra fratelli e sorelle. Una situazione molto particolare, ma non è l'indigenza o chissà quale altro fattore a renderla una bambina diversa. È una sensazione, una vocina che parla da qualche parte, dentro al corpo. Una prima timida presa di coscienza che emerge. Più semplicemente, un amore che sta nascendo. Mi sembrava un po' un mondo un po' estraneo, ecco, non ero proprio ancora dentro questo mondo e cercavo di vivere il suono, ecco, io vivevo già il suono da quell'età, vivevo dentro questo suono, coloravo le mie giornate, cantavo, coloravo qualcosa che attorno a me non vedevo. Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore, ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli. Io ricordo che avevo 6 anni, 7 anni, ricordo che facevo, allietavo quei pochi momenti che ho visto mio padre, allietavo queste serate saltando sul tavolo, travestendomi da Charlotte oppure cantando brani dell'epoca, delle chantose, oppure giravo, mi ricordo, nei portoni perché all'epoca non c'era proprio nulla e quindi a piedi nudi imitavo Sandy Shaw. La passione per la musica e la voglia di esibirsi sono conigli che saltano fuori presto dal cilindro di Anna, insieme al suo irrefrenabile desiderio di trasformarsi e di vestire panni diversi, un miscuglio di estro e grinta cui Bari si dovrà inginocchiare e che spingono la Oxa verso l'unica e sola direzione possibile, quella di cantare. Inizia nei piano bar, dove viene apprezzata mentre si diverte a fare il verso ai cantanti dell'epoca. Poi la prima sorpresa, il primo salto. Mi ha ascoltato una sera per caso un tale Scar delle Recciani e ha detto ci terrei a fare dei provini. Allora, ci vediamo a Roma, sai, sono quelle cose che nascono così, questi dici, ma figurati. Invece io sono arrivata a Roma, ho fatto dei provini e subito dopo Sanremo. A sentire la Oxa, Sanremo sembra la tappa di un treno regionale, un passaggio scontato lungo una tratta definita. È la forza delle star, quella di assorbire i grandi salti come se fossero normali scalini che portano a un piano più alto. Deve far parte di quel suono di cui Anna parlava prima. Forse, per chi è abituato fin da piccolo a vivere la vita in note, i palcoscenici non hanno dimensione, sono solo dei ponti verso la gente. Ma per quanto scontato, per quanto breve, il suo percorso non può fare a meno di qualche imprevisto. Qualche incontro, per esempio. Uno di quelli che non capitano tutti i giorni. Sono sicuro oggi che quella passione fortissima che mi ha preso, non quando a 8 anni mi hanno mandato a studiare il pianoforte, perché non ci volevo andare, non mi piaceva. Più tardi, verso i 14-15 anni, all'arrivo dei primi dischi dei Beatles e degli altri gruppi inglesi, io ho perso completamente la testa e ho capito che avrei voluto fare quello, anche male, mi sarei accontentato anche di farlo male. È la solita storia, una canzone, magari un disco, un suono che rapisce e via discorrendo, per arrivare sempre alla stessa conclusione, la mia vita sarà la musica. Non c'è molta fantasia in giro tra gli artisti, ma a guardare bene forse è giusto così. Non è che ci debba per forza essere dietro chissà quale segreto o trama ingarbugliata, la musica colpisce e lo fa in modo diretto, come una freccia scoccata che trafigge il bersaglio. E spesso si diverte a farlo anche con le persone. Così Anna Oxa incontra Ivano Fossati, o forse il contrario. Quello che conta è la scintilla che si crea subito. C'è qualcosa che li unisce. E forse non sanno nemmeno loro cosa. La musica parla, non sono solo le parole che parlano, che dicono. È la musica che dice molto di te, di dove vuoi andare, di cosa sei, di cosa vuoi rappresentare. Da una parte il trasformismo di Anna, che si svilupperà col passare degli anni ma che già cova dentro di lei. Lo abbiamo capito dalle sue parole. La Oxa insegue un suono che non è lineare. Dall'altra c'è Fossati. Altra anima musicale in subbuglio, anche se in maniera diversa. Comincerà con il beat, poi il progressive, poi il pop, il cantautorato. Le sue trasformazioni sono meno visive, più sonore. Questo lo porterà a effettuare diverse collaborazioni, perché la musica non è di qualcuno. La musica ha bisogno di commistioni, contaminazioni. Il risultato, in questo caso, è il debutto a Sanremo, per Anna, fortemente voluto da Ivano che le scrive il brano. È il 1978 e la Oxa ha 17 anni. Non ha mai perduto. ritrovarsi dopo tantissimi anni, perché Ivano è stato mio primo autore, e quando ci siamo rincontrati a distanza di 32 anni, insomma siamo lì, c'è stato veramente un grande desiderio di raccontarci, e addirittura di raccontare tutto ciò che forse io neanche ricordavo, no? Non so, abbiamo fatto dei provini assieme, abbiamo vissuto anche un momento nel passato straordinario, no? Sia musicalmente che come c'era ancora voglia di fare, no? La voglia di fare ha certamente accomunato questi due artisti e deve essere un timbro che non si cancella, visto che, come abbiamo sentito, i due sono ritornati a collaborare dopo molti anni. Forse sono cambiati i presupposti. Di sicuro è cambiato il mondo che li circonda, e non si parla di mondo solo nel senso di ambiente in cui essi vivono e quindi la scena musicale, ma nel senso comune della realtà che circonda loro, noi, voi. In ogni caso, al di là delle differenze, è rimasto qualcosa, un legame interiore che resiste a qualsiasi forza esterna. Penso che Ivano sia stato un incontro dove si è pennellato tutta la ricerca, la positività e il desiderio di qualcosa che va oltre, e quindi di un'osservazione più profonda, dove si guadagna sempre la leggerezza, perché la leggerezza la guadagni dopo che hai attraversato la profondità, ed è stato un grande valore. Recentemente Ivano Fossati ha annunciato il ritiro dalla scena musicale. Una decisione voluta, in qualche modo forse cercata, certamente sofferta. Ascoltando le sue parole di commiato, si percepisce quale sia il rapporto con la musica e quanto questo rapporto sia comune in molti artisti. Alcuni di più, ed è per questo che Anna e Ivano si sono incontrati, è per questo che si sono scambiati idee ed emozioni. È per questo che hanno collaborato, perché quando incontri uno che la pensa come te, anche se lo esprime in maniera diversa, viene voglia di fare un pezzettino di strada insieme. Quello da cui io mi sto staccando è il mestiere della discografia. Nessuno, nel mio caso, in nessun altro caso, nessun artista, nessuno che faccia il mio mestiere, può staccarsi dall'amore per la musica. È un'altra cosa ed è sacro e resterà sempre lì. Io credo che continuerò a studiare, credo che continuerò a suonare, credo che continuerò ad ascoltare la musica degli altri, anzi non credo, togliamo tutti questi credo. Continuerò a fare tutto questo perché ero monomaniaco da ragazzo e lo sono ancora. Non c'è niente che mi attiri più di un negozio di strumenti musicali anche adesso. Ma quella parte rimane lì intoccata. Io mi voglio staccare dall'attività, ecco, da quella che si chiama comunemente l'attività discografica. Chi ha cercato la maniera e non l'ha trovata mai, alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nel... C'è un particolare che colpisce nell'esordio di Anna. E non riguarda solo la musica, riguarda il suo look. La Oxa si presenta sul palco in divisa punk, con i capelli neri corti tirati indietro dal gel, un trucco che esalta gli occhi e un abito nero androgino con tanto di cravatta. Senza contare quegli strani guanti in pelle che lasciano le dita scoperte. Qualcuno pensa a un'adesione voluta a un genere e a un'ideologia. Qualcun altro al tipico esibizionismo degli artisti, anche di quelli giovani. Ma la realtà è un'altra. Io nel 78 ho costruito un'immagine insieme a Ivan Cattaneo, ed era un'immagine punk, naturalmente era un'ironia. Dopodiché ho pensato di cambiare, di togliermi via questi panni che non mi appartenevano, ma era un gioco, per essere me stessa, quindi negli anni ho cambiato. La Oxa si tuffa negli anni 80 con tutta la voglia di stupire e cantare che fin da piccola gli si è appiccicata addosso. Inizia per lei un periodo di grande produzione musicale, in cui non mancheranno altre collaborazioni. Anna unisce a questo suo desiderio di emergere il suo personalissimo stile, abbandonando il punk e i capelli neri per approdare a un più femminile look biondo e sensuale. Un'immagine che va di pari passo con il suo passaggio da ragazzina prodigio a donna. La ragazza del piano bar è cresciuta, è diventata un'artista vera. Io non so dove andrà, non so quali saranno le sue stagioni. So che adesso può camminare da sola, perché lei alla musica sotto la pelle. Signori, Anna Oxa. È un Teo Teocoli dannata a confermare quanto il pubblico sta apprendendo da solo. Anna è oramai una cantante vera, apprezzata e amata, capace di proseguire da sola verso il suo obiettivo, quel suono che vuole condividere insieme agli ascoltatori. La Oxa sceglierà spesso il palcoscenico del Festival di Sanremo per realizzare la sua aspirazione. Aspirazione di cui è orgogliosa e di cui non ha mai fatto segreto. Innanzitutto ognuno di noi, credo, si prefigge una meta. Dopodiché bisogna raggiungerla questa. Uno non canta solo per gli amici, quando uno è in casa, uno canta per la gente. Per me la musica è un'espressione, a me la musica mi fa compagnia. Se devo fare 2 ore di allenamento, io voglio sentire un po' di musica. Dunque il sassolino è buttato senza nascondere la mano. Toccherà a Sanremo dare la sentenza. I magnifici destini. I magnifici destini è sulle tracce di una donna sensuale dai molteplici aspetti e dotata di una grande voce. Anna Oxa, piccolo e prezioso gioiello incastonato a Bari, ha seguito quel suono che da piccola la faceva sentire diversa dalle altre, destinata a un palco e alla musica, ed è approdata sulla scena stregando spettatori e critici. Ci sono voluti Ivano Fossati e un po' di ironia travestita da punk per fare colpo. Un binomio che ha funzionato. Da un po' di tempo Anna cammina sulle proprie gambe e macina chilometri sulla strada del successo. Davanti a lei ora c'è un obiettivo chiamato Sanremo, perché ad Anna piace proseguire così, cercando sempre nuovi stimoli, cercando di capire ciò che la circonda, per arrivare al cuore della gente. Io sono sempre qui, affronto le cose e cerco di capire che cosa c'è alla base dell'essere umano. Ci sono delle meccaniche mentali che ti spingono a ripetere all'infinito le cose perché non hai compreso qual è la meccanica che te le fa rifare. Quindi ho lavorato molto su di me, io lavoro solo ed esclusivamente su di me per poi poter dare, perché non credo a quelli che danno e non lavorano, perché vuol dire che non hanno potuto comprendere e sciogliere, per cui è impossibile poter concedere, perché non concedi mai con amore. Sentir parlare Anna Oxa è sempre affascinante. Si ha la sensazione, qualsiasi sia l'argomento, che ci sia molta carne sopra il fuoco. La stessa sensazione che si ha quando la si sente cantare, con quella voce che trafigge la pelle per arrivare dritta al cuore. Sanremo ci metterà un po' ad accorgersene, ma alla fine dovrà inchinarsi anche il festival. Succede nel 1989, nella sua 7ª partecipazione. Come nel debutto, Anna non sarà sola, ma questa volta se lo troverà di fianco. A chi, se non a lui, Fausto Leali, il negro bianco della provincia di Brescia, con tutte le accezioni più positive che questa definizione contiene. Un soprannome che si è guadagnato grazie alla sua voce roca e suadente, a tratti aggressiva, un po' in contrasto, per la verità, con l'andazzo generale che caratterizza il panorama canoro italiano. Fausto comincia a esibirsi negli anni 60 e lo fa prendendo spunto dalla musica che ama di più, quella un po' beat e un po' rock che sta spopolando in America e in Gran Bretagna. Ma alla base c'è lo stesso fuoco che accende il cuore di Anna, quella voglia di sputare l'anima dentro a un microfono per la gente che ascolta. A me piace moltissimo cantare in pubblico, fare le serate, ne faccio tantissime, e perché la gioia che ti dà il pubblico davanti ogni sera è una roba che ti ripaga di tutti i viaggi, le code, stanchezze. Non c'è stanchezza che tenga per Fausto Leali. È sempre stato così. Anche quando è sembrato cadere un po' nel dimenticatoio, agli inizi degli anni 70. Chissà per quale motivo. Lo show business a volte sa essere spietato. La verità è che il cantante possiede delle qualità canore straordinarie, le stesse che appartengono ad Anna. Sono due voci incredibili le loro, e la sensazione quando decidono di presentarsi insieme a Sanremo è che sarà uno spettacolo nello spettacolo. Non passa molto tempo per accorgersi che effettivamente è così, e in un attimo la gara del festival si trasforma in una finale scontata. Allora andiamo a scoprire numero uno. La canzone numero uno, siamo tutti ansiosi. Momento più aspettato, per favore. Il festival di Sanremo. Vediamo. Riscende per l'ennesima volta il tabellone. Allora, questo è il momento più aspettato del festival. La canzone numero uno. Ormai si sa. Vincitrice del 39esimo festival della canzone italiana. Ti lascerò cantata da Anna Pastorelli. Avanti. È vittoria dunque. Vittoria per Anna, che da anni insegue il festival per dare una consacrazione al suo percorso. Vittoria per Fausto, che qualcuno aveva dimenticato per un po', preso da chissà quale abbaglio. Vittoria per entrambi, per queste due voci che alla fine riescono a mettere tutti d'accordo. Fausto ed Anna si divideranno una volta terminato il festival. E non è azzardato affermare che sia un peccato, ma i percorsi cambiano e non c'è giuria che tenga. Nessuno dei due comunque riuscirà a dire addio a Sanremo. Torneranno sul luogo del delitto perché non c'è niente di più bello che sentirsi a casa. Lo faranno cantando, sia uno che l'altro. Ma Anna non si limiterà a questo perché ormai lo abbiamo imparato. A lei piace sorprendere. Anna Oxa! Sono cambiate tante cose perché io ho vissuto su questo palco per tante volte come interprete, certo. Ma mai con questa veste qui, un po' bizzarra, un po' particolare, quindi devo dire che sono molto emozionata perché debutto per presentare i miei colleghi. Dunque la Oxa a Sanremo non si limita alla partecipazione alla vittoria, ma si toglie pure lo sfizio di presentarlo. Non è il solito capriccio da star. Per Anna le nuove sfide sono linfa vitale e ogni cambiamento è legato a una necessità, come ammetterà più avanti. Era un essere in ricerca, un essere che sperimentava, la sperimentazione è importante. Avere contatto però cercando di non solo di farsi delle domande, ma di comprendere le cose, perché altrimenti tu diventi uno che segue qualcosa, siccome già si fa questo, no? Noi ci leghiamo a qualsiasi cosa. Ci leghiamo alle tradizioni, ci leghiamo agli schemi, che ne so, dei luoghi, alle cose, perché abbiamo questa enorme mancanza di amore. Come il sole, i tuoi sensi accenderò, e piano piano poi ti spegnerò. Donna con te, di me, chissà che sai, donna con te. La sperimentazione, il trasformismo. Ci sono talmente tanti lati di Anna che è difficile metterli tutti assieme, ma ce n'è uno in particolare che non tutti si aspetterebbero. Sarà per il suo fascino così magnetico, per la sua immagine così carica di sensualità. Eppure la Ox, oltre a una voce divina, una testa che pensa e un corpo che segue il tutto tenendo il ritmo, possiede anche un lato comico. Come sono andata? Benino. Mi hanno fatto venire qua, fantastico. Perché io piaccio, sono una ciaciona, sono piacione, si vede pure, insomma, non è che si vede, no? Sono una cosa. È vero, ragazze? Sì! Una delle qualità che fa di una brava professionista una star è la capacità di mettersi in gioco. Per Anna Oxa le sfide sono pane quotidiano e così, indossati i panni della conduttrice televisiva, non si limita ad annuire con la testa o a parlare come se stesse leggendo un elenco, con gli occhi puntati fissi verso la telecamera. Al contrario, si diverte, fa divertire, imitando ad esempio Wanda Osiris e Marisa Laurito, come abbiamo appena sentito in uno dei Fantastico che raduna gran parte degli italiani davanti alla televisione. Uno si trasforma perché siamo indotti ad evolverci, non ad involverci. Non possiamo rimanere tali e quali. Non si può essere ciò che non si è, perché dopo un po' si è indotti a cedere, no? Allora siamo pronti a stupirci ancora, perché è evidente che la Ox non ha ancora finito di seguire quel suono che è stato e continua a essere il suo faro, la sua direzione, il suo obiettivo. C'è ancora tanto da vivere e da cantare. Ci sarà anche il momento di stare in silenzio e di urlare con tutto il fiato che si ha in gola. In ogni caso, qualunque sarà il prossimo passo, qualunque sfida, qualunque incontro, siamo sicuri che Anna lo farà suo. I magnifici destini. Mio papà era albanese ed era un ex rifugiato politico e quindi ha vissuto quel tot della sua vita, perché poi si è spento abbastanza giovane. Sono stata in Albania, ma ho riconosciuto tanto mio padre in me, che è una cosa molto importante, perché a volte noi ci muoviamo perché dentro di noi vivono questi genitori, no? Quindi io sono stata in Albania, che adoro, che amo ancora oggi, però che vivo in modo differente da come era invece il vissuto di mio padre, lo sguardo di mio padre nei confronti della sua terra. I magnifici destini ancora dentro al percorso umano e professionale di Anna Oxa, cantante pugliese le cui origini, come abbiamo sentito, sono legate alla vicina Albania. Anche la terra di provenienza è stata per Anna motivo di riflessione profonda, così come lo è stato tutto il suo percorso musicale, che alla fine degli anni 90 è ancora vivo, alimentato dal sacro fuoco della passione. Dopo qualche album di raccolta di successi e di cover, Anna torna a tuffarsi nel suo mare preferito, quello di Sanremo. Testardaggine, continua voglia di dimostrare qualcosa, dedizione. Si può chiamare come si vuole. La verità è che la Oxa, con cadenza più o meno regolare, fa capolino nella cittadina ligure per ristabilire le gerarchie. E così, dopo un secondo posto nel 1997, due anni più tardi, Anna torna nuovamente a guardare tutti dall'alto. Ovviamente un po' di stordimento c'è, perché poi dopo una vittoria bisogna dedicarsi, diciamo, alle interviste, alle fotografie, eccetera. Io sono contenta perché avevo già raggiunto l'obiettivo di vincere il disco d'oro dopo 3 giorni dall'uscita del mio album, dopo la prima esibizione. Beh, la vittoria di Sanremo per me è stata la ciliegina su una grande torta. Vi ringrazio tantissimo e... È una Oxa effettivamente raggiante, quella che festeggia la seconda vittoria. E non potrebbe essere altrimenti, visti i contemporanei risultati di vendita. Ma è anche una Oxa diversa, che ha abbandonato il look diafano e i capelli biondo platino per una nuova immagine decisamente più sexy, più provocante, con la pelle abbronzata e una chioma che si butta indietro lungo la schiena nuda. È l'ennesima trasformazione a confermare che non si è artisti a metà e che l'immagine è strettamente legata ai contenuti musicali. Se qualcuno pensa che la doppia vittoria a Sanremo, qualche album di successi e un elenco infinito di canzoni possano aver placato la sete di Anna, si sbaglia. Lo dimostra il fatto che subito dopo il trionfo al festival, la Oxa sfodera un altro jolly dal suo mazzo. Un jolly che è andata a pescare fuori dall'Italia. È la solita imprevedibile Anna. Non fai a tempo a celebrarne un successo che già sta pensando al prossimo. Così, per lasciare di nuovo tutti a bocca aperta, se ne va a Porto Rico a pescare Chayanne, un cantante che la maggior parte degli italiani probabilmente non ha mai sentito in vita sua, ma che ha al suo attivo una trentina di milioni di dischi venduti. Incredibile. È uno dei talenti sudamericani che stregano per quel loro mix di latino e pop. Una bandiera per il proprio paese e una sorpresa per il nostro. La Oxa non si lascia sfuggire l'occasione e ancora una volta fa centro con una hit che mescola le due tradizioni e riscalda le serate estive. Io vorrei adesso lasciarvi, naturalmente, per ascoltare questa canzone straordinaria. Sì. Poi però... Posso ricordare solo una cosa, insomma, un minimo di pubblicità va fatta, sì, questa cosa, perché è una roba secondo noi molto divertente, oltre che molto carina. Noi cominciamo una tournée che comincia il 1° di febbraio, si finisce non si sa quando, speriamo più tardi possibile, io e Anna nei teatri. Quindi mi raccomando... Si chiama Concato Oxa e viceversa. E diciamole le cose. Questa volta si tratta di un vero e proprio tour. Un tour che appassiona migliaia di spettatori grazie alla bravura e all'entusiasmo che Fabio e Anna mettono sul palco. Una coppia davvero riuscita. Lui, milanese doc dalla voce inconfondibile che porta con sé nel bagaglio piccole sfumature jazz e un innato senso dell'umorismo. Lo stesso che lo spinse a esordire da giovane. E poi la Oxa, naturalmente, con la sua carica di energia e sensualità. I due si divertono a scambiarsi canzoni e microfono in giro per l'Italia, deliziando le platee. D'altra parte, è sempre stato questo lo scopo di Anna. Lo è ancora oggi, dopo anni di onorata carriera, grazie a un percorso che non smette di arricchirsi e di stimolare prendendo spunto, e non le distanze, dal passato. Viviamo di meccaniche, noi ci muoviamo in modo meccanico e ripetiamo le cose all'infinito. Per cui ho guardato tutto il mio passato con questo occhio, per poter poi avere la possibilità, quindi usarlo come ponte per il nuovo. Oggi Anna Oxa ha il piglio della sperimentatrice, sia di atmosfere musicali che di esperienze che le permettano di dialogare con il pubblico. È per questo che a momenti di grande esposizione mediatica si alternano periodi di silenzio necessari per ricaricare il motore della creatività, un passaggio necessario per elaborare uno scherzo, forse un trucco, chi lo sa, probabilmente l'ennesima trasformazione. Poi la Oxa torna, come sempre, a cantare e a mettersi in gioco. Evidentemente quel suono che insegue non ha ancora smesso di emettere note. Non ci può essere scissione tra suono, musica e vita, perché quella è la mia vita. Quello sono io.